America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Beh, intanto vi anticipo una dichiarazione del segretario al tesoro Geithner, che in una intervista di addio col Wall Street Journal ha detto: beh, l'America a questo punto è fuori dalla crisi, siamo ormai arrivati nella fase finale, ai quattro quarti, un po' l'esempio della partita del pallacanestro, mentre invece dice l'Europa è ancora indietro, l'Europa è soltanto a metà del guado. Il messaggio: spingete per la crescita. Ma oggi vorrei parlarvi d'altro. Miss America is Miss New York. Miss America, la settimana scorsa abbiamo saputo che Miss America, lo avete ascoltato nel momento clou di questo straordinario evento, ha vinto Mallory Hagan, Miss New York, una ragazza di Brooklyn, molto carina, bionda. Però al di là dell'evento, di cui sicuramente avrete già sentito parlare, avrete visto le foto e così via e così via, devo dire che l'opinione pubblica americana in questi giorni è presa da un'altra storia nel concorso di Miss America, perché una delle partecipanti, una delle finaliste, e cioè Miss DC, una ragazza del Maryland, Allyn Rose, ha fatto notizia perché ha dichiarato che si sarebbe sottoposta subito dopo la fine del concorso a una doppia mastectomia. To have a mom be this genetically predisposed, to have my grandmother passed away from breast cancer, to have my great, you know, aunts passed away from breast cancer, I'm not willing to take that risk. Allyn Rose, l'avete sentita, una ragazza, devo dire, deliziosa, molto bella, bionda, occhi azzurri, viso affilato, molto intelligente, racconta in questa sua intervista concessa ieri alle reti televisive americane, e dunque è proprio ieri che se ne è parlato poi più a fondo, racconta come sua nonna è morta di cancro al seno, la sua prozia è morta di cancro al seno, soprattutto sua madre è morta di cancro al seno a 27 anni, e racconta con grande tristezza nel ricordo del padre come la madre a 27 anni sapeva che sarebbe morta, e il più grande dolore era proprio quello di andarsene lasciando questi figli piccoli che non avrebbe visto crescere, che non avrebbe conosciuto. I want to be proactive, and it's something that I'm not willing to wait around to see if it happens to me. Ecco, di nuovo Allyn Rose, e qui dice: ho deciso, anche su insistenze di mio padre, che mi raccontava di questi momenti tragici, di non essere passiva, di giocare d'anticipo contro questa orrenda malattia. Ho fatto delle analisi genetiche, risultato che c'è in effetti una mutazione del gene che mi può portare al cancro al seno, e quindi la mia decisione è stata irrevocabile. Nel giro di qualche settimana mi farò asportare entrambi i seni. Una storia altamente drammatica, ma una storia che ci porta su un argomento ovviamente di attualità: come ci si comporta in situazioni di questo genere, soprattutto situazioni che debbono essere conosciute dal grande pubblico. Ho con me ai microfoni di America 24 Riccardo Dalla Favera, professore alla Columbia University, esperto di genetica dei tumori. Buongiorno professore. Buongiorno. Ecco professore, lei ha seguito la storia di questa giovane di 24 anni, Allyn Rose, che ha deciso di fare una doppia mastectomia. Ecco, come reagisce a questa notizia? Tanto più che una giovane a 24 anni. La mia prima reazione è che dal punto di vista medico non è una storia inusuale. Le donne che sono diagnosticate avere una lesione genetica familiare che predispone al tumore del seno hanno come opzione la rimozione di entrambe le mammelle e quindi la prevenzione dello sviluppo del tumore. Questa storia particolare, ma come forse tutte le storie, non ha solo componente medico, ma ha ovviamente anche forti componenti psicologiche e emozionali che vanno considerate in questi casi. Ma dal puro punto di vista medico è un'opzione razionale, perché elimina il bersaglio dello sviluppo del tumore. La predisposizione genetica in realtà c'era fino a un certo punto, perché sembra che la ragazza abbia fatto queste analisi genetiche e i due elementi chiave che determinano questa componente ereditaria sono il BRCA1 e il BRCA2, non sono stati rilevati, però è stata rilevata una mutazione genetica che così insinua il sospetto che potevano esserci comunque dei rischi. Che consiglio può dare alle persone che si trovano in delle situazioni familiari di questo genere, di fare queste analisi genetiche, perché io credo che molti da noi in Italia forse non sono neanche al corrente che c'è la possibilità di fare delle analisi genetiche, vedere se c'è una storia familiare. Era logico che facesse la doppia mastectomia in funzione solo di una mutazione genetica possibile? Ma io direi che il consiglio è senz'altro per questi casi di rivolgersi a ambienti specialistici. In ambienti specialistici una donna giovane che ha una storia familiare di tumore al seno è immediatamente indirizzata verso l'analisi genetica. Purtroppo solo in una frazione dei casi l'analisi genetica consente di determinare se il soggetto è effettivamente portatore della predisposizione o no. Suppongo da questa storia che in questo caso sia appartenga alla frazione in cui c'è una lesione genetica di significato non chiaro e quindi è aperta l'opzione della rimozione della mammella. Chiaramente questo tipo di decisioni devono essere fatte in consultazione con il medico, col supporto psicologico, con tutta un'organizzazione consultoria specialistica che è senz'altro presente in Italia e nei centri specializzati. Ecco, ma facendo queste analisi genetiche, che probabilità ci sono che poi il cancro si materializzi? Se con le mutazioni genetiche sono già note predisporre al cancro, la probabilità di sviluppare il cancro è molto alta e il cancro che si sviluppa in età giovanile ed è molto aggressivo. Quindi questo giustifica fra varie opzioni anche la rimozione. E quando dice giovanile vuol dire in che? Giovanile può essere anche a 20-30 anni. E cercando di concretizzare il rischio alto, parliamo di 50, 70, no, 30? No, è quasi assoluto nella vita. Se c'è la lesione genetica chiara, quelle note, il rischio è quasi completo di sviluppo del tumore. Ecco, come siamo dal punto di vista del progresso nelle cure? Il cancro non è una malattia sola, ma è centinaia di malattie, quindi in alcuni tipi di cancro si sono fatti progressi enormi con possibilità di cura, anzi in alcuni c'è quasi la certezza della cura, altri tipi di tumori la situazione è ancora molto ferma dal punto di vista del progresso. Nel caso del tumore della mammella c'è senz'altro in una buona frazione dei pazienti la possibilità di cura. È molto difficile in questi casi giovanili con predisposizione genetica. Anche i linfomi hanno lo stesso, diciamo, quadro. I linfomi non è una malattia, sono forse due o tre decine di malattie diverse, alcune curabili, altre meno curabili. Quindi negli ambienti specialistici ci sono terapie sempre più nuove che senz'altro hanno successo in certi tipi di linfomi. E la sua è una ricerca di simulazione? Come procede la sua ricerca? Cosa sta cercando? È di nuovo l'individuazione di geni che sono alterati, questa volta solo nelle cellule linfomatose, cioè non vengono ereditati, e che contribuiscono allo sviluppo del tumore. Sono degli errori genetici che una cellula fa e si diventa maligna. Noi cerchiamo di identificare questi geni e sulla base di queste identificazioni sviluppare farmaci che invece di essere dei tossici generali colpiscono solo il tumore e non le cellule sane. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Barack Obama si sta preparando per il grande show dell'inaugurazione lunedì. Lunedì ci sarà l'inaugurazione, ha diffuso via Twitter la playlist ufficiale degli artisti che si esibiranno a partire da domani e fino al momento dell'inaugurazione. Stevie Wonder, Beyoncé, Alicia Keys e molti altri. Noi dedichiamo la canzone del giorno ad Alicia Keys, New Day. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!